Speciale, la politica nel tunnel. Buon pomeriggio dalla postazione di Montecitorio di Radio 24, da Elisabetta Fiorito e da Vincenzo Miglietta. Allora Vincenzo, ore decisive per i presidenti delle Camere, del Senato e della Camera dei Deputati. Il Movimento 5 Stelle continua a dire no ad accordi con il PD, anche se il segretario Pierluigi Bersani ci spera ancora. In questo momento i grillini sono riuniti qui nella Sala della Regina di Montecitorio. Te la ricordi la famosa Sala della Regina, il famoso patto della crostata? Eh sì, Elisabetta, me la ricordo bene, la Sala della Regina dove si riunì la bicamerale presieduta da Massimo D'Alema, e chissà quindi che penseranno i grillini. Si parlava di riforme, allora si continua a parlarne oggi. I nomi dei candidati verranno fuori alle 19, ma sentiamo cosa hanno detto i capigruppo Crimi e Lombardi. Al Senato abbiamo deciso che dopo una lunga discussione abbiamo deciso che voteremo un nostro candidato presidente. Abbiamo discusso dell'incontro avuto ieri col PD, rimarcando che non abbiamo intenzione di fare nessun tipo di accordo o merce di scambio, comunque non ci prestiamo a questo. Riteniamo importante che in questo momento il Parlamento non si fermi anche durante le consultazioni. Analoghe ragioni fanno sì che si sia deciso di avere una figura 5 Stelle per il ruolo di Presidente della Camera. Nessun tipo di accordo dunque dal Movimento 5 Stelle, un appello al senso di responsabilità viene però dal capogruppo di Sinistra Ecologia e Libertà Gennaro Migliore, lo abbiamo avvicinato poco fa qui a Montecitorio, ascoltiamo. Non ci sono ancora dei profili che si impongono come candidature naturali, quindi aspetteremo anche le riunioni dei gruppi politici, dei gruppi parlamentari che ci saranno oggi, quella del Partito Democratico credo sia stasera. E valuteremo. In questo momento quello che posso dire è che stiamo cercando ciascuno di mantenere un profilo di responsabilità, perché è evidente che il passaggio è molto delicato e comunque entro sabato dobbiamo assolutamente eleggere il nuovo Presidente della Camera e del Senato. Lei come legge il ribadire da parte del Movimento 5 Stelle: noi proponiamo i nostri nomi, se agli altri piacciono li votino? È ancora un po' una logica della campagna elettorale, devo dire. Come ho già detto, non abbiamo pregiudiziali, però non siamo neppure coloro i quali si fanno comunicare via a mezzo stampa quelle che sono le intenzioni. Credo che innanzitutto dovrebbero avanzarle queste proposte, per ora, a meno che non ci siano state ultime novità, non ci sono neanche queste. Acque agitate invece nel PD, qui in Transatlantico la maggioranza dei deputati non ha voluto rilasciare dichiarazioni, segno anche della delicatezza del momento. Il segretario Pierluigi Bersani non parla neppure lui. Grillo intanto continua a provocarlo, a pungolarlo, dice che i deputati 5 Stelle si taglieranno lo stipendio a 5.000 euro e sprona a fare altrettanto nel Partito Democratico. Intanto Matteo Renzi si dice disponibile a candidarsi premier qualora il tentativo di Bersani dovesse fallire, e il sindaco di Firenze è sbarcato a Roma, Vincenzo, ha riunito i suoi all'hotel Cavour, e tra loro c'è anche Roberto Giachetti, deputato PD, lo abbiamo avvicinato poco fa. Ma era una riunione che avevamo previsto da un paio di mesi, nel senso ci eravamo visti 2 mesi fa per fare un punto su come molti sono deputati nuovi, anzi la stragrande maggioranza, quindi anche per spiegare un po' come funzionano le cose e via dicendo. Doveva essere fatta l'altra settimana per evitare che apparisse come una riunione che creava problemi in funzione delle elezioni, è stata rinviata, ma siamo arrivati perché dopodomani si inizia l'aula, e quindi ci vediamo semplicemente in continuazione con quello che avevamo detto l'altra volta, cioè metterci d'accordo, organizzarci, vederci, conoscerci, tutto qua. Quindi non c'è una fronda anti-Bersani? Ma adesso ogni qualunque cosa succede, non so, se io cammino con mia sorella per strada avrò fatto una fronda contro qualcuno, perché no, proprio no, mi sembra una cosa normalissima, cioè tra 50 persone che comunque sia si sono trovate su un ragionamento e vicendo si vedono per conoscersi, mi sembra normale. C'è intanto il fatto che probabilmente il tentativo di Bersani fallirà. Renzi sul Corriere della Sera ha detto che lui è disponibile anche a proporsi come candidato premier o comunque a subentrare poi alla guida del partito. Ma guarda, intanto con i sì e con i ma non si fa la storia e non si fa manco la politica. Io non so se il tentativo di Bersani fallirà, ci sono tantissime difficoltà, ma normalmente mi occupo delle cose quando accadono, non è che me ne occupo prima, quindi non è che io adesso mi metta a fare un ragionamento su quello che accadrebbe se il tentativo di Bersani fallirà. Dovesse fallire il tentativo di Bersani, ragioneremo sul resto. I grillini li ha incontrati? Ci sono dei punti di contatto? Io non vedo l'ora di incontrarli, però siccome non faccio parte di delegazioni e cose via dicendo, ancora non li ho visti. Però non vedo l'ora di incontrarli, perché siccome penso siano persone normali, mi fa pure piacere incontrarli. Sin qui dunque le dinamiche all'interno del Partito Democratico. Il Popolo della Libertà invece è molto attivo sul fronte giustizia, lo è meno sul fronte parlamentare. Betta, cosa sta facendo quindi Berlusconi in queste ore? Ma in queste ore praticamente il PDL non fa nomi, vuole solo un candidato di centrodestra al Quirinale, sceglie una linea attendista. Abbiamo sentito Iole Santelli, l'abbiamo un po' stuzzicata anche sui nuovi parlamentari, un Parlamento rinnovato fatto di giovani, grillini e PD, quindi parlamentari molto giovani, ma lei diciamo non è vecchia assolutamente, ma sentiamo come si sente. Non lo so, ho incontrato tanti nuovi volti, immagino che ce ne fossero anche del Movimento 5 Stelle. Un Parlamento che si è rinnovato? Beh sì, mi hanno detto molti funzionari e commessi, soprattutto che tantissimi sono le facce nuove, moltissimi giovani. Quante legislature lei ha fatto? 4, sono vecchia, è la quarta. La quarta, però poi comunque è giovane. Ma pare che mi sento vecchia. Che cosa succederà con queste votazioni dei presidenti delle Camere? Perché l'accordo non c'è, voi presenterete i vostri candidati? Ancora non lo sappiamo, vediamo che qual è l'evolversi della situazione, quindi ci siamo presi almeno per decidere ancora un po' di tempo. Però il Cavaliere ha detto che al Quirinale non vuole un uomo di sinistra. Dal 92 in poi. Abbiamo avuto dei presidenti, quasi tutti, che alla fine in qualche modo si è visto, anche se sembravano neutrali, fra virgolette, o così volevano apparire, erano tutti quanti estremamente a sinistra. Credo che tutti quanti possiamo almeno sperare di avere un presidente della Repubblica in cui tutti ci possiamo riconoscere. E lei chi vedrebbe al Quirinale? Io con altre mie colleghe abbiamo per esempio lanciato dei nomi di donne, abbiamo fatto dei nomi tipo sia persone dello Stato, tipo Ara Iannini o il ministro Severino, abbiamo citato anche la nostra collega Margherita Boniver, che non è più eletta ma sicuramente è una persona di grande conoscenza internazionale. A me per esempio piacerebbe uno della caratura di Mario Draghi. E alla Camera magari ci rimettiamo una donna o al Senato? Io mi auguro di avere delle figure anche qui che siano all'altezza di svolgere il loro ruolo di seconda e terza carica dello Stato. Poi ricordiamo che il senatore a vita Colombo attende i grillini che devono andare al Senato con giacca e cravatta. E poi c'è anche però chi non si è candidato, Vincenzo? Sì, pochi, ma è il caso di Francesco Pionati, Alleanza di Centro, ex giornalista Rai, ex area di centrodestra, e ci ha spiegato anche il perché non si è presentato a queste votazioni. Sentiamo. Ma io non mi sono proprio candidato proprio perché prevedevo quello che è successo, cioè un momento di assoluta turbolenza e incertezza. La mia previsione è basata anche scaramanticamente sul fatto che questa è la legislatura numero 17 e che si tratti di una legislatura brevissima, che durerà pochi mesi, ammesso che si riesca a farla partire, perché vedo difficoltà iniziali veramente molto gravi. È la prima volta nella storia della Repubblica che ancor prima dell'insediamento del Parlamento si parla di elezioni anticipate, quindi questo è un segnale preciso. È un momento di assoluta turbolenza che prevedo finirà male per un motivo molto semplice: non siamo in condizioni ordinarie nelle quali basta mettere in piedi una maggioranza purché sia, come si faceva negli anni 80 o negli anni 90, quando dei grandi navigatori esperti come Andreotti riuscivano comunque a portare avanti un governo per anni. Qui siamo in un momento delicato di scelte drammatiche per il Paese che devono avere un segno preciso: o si fa una politica economica di destra liberale o si fa una politica economica di sinistra riformista come quella che sta facendo per esempio Hollande in Francia. La via di mezzo non è possibile percorrerla, poiché non vedo chiarezza in una linea di un senso o di un altro, temo che ci avvideremo su noi stessi e andremo alle elezioni rapidamente. Peraltro io penso che sia salutare per il Paese, perché, ripeto, noi abbiamo bisogno di scelte chiare e non di vivacchiare. C'è un vecchio detto andreottiano che dice: meglio tirare a campare che tirare le cuoia. Io credo che oggi tirare a campare equivalga a tirare le cuoia. Ecco, un po' delle retrospettive democristiane, sì, Vincenzo. Andreottiane. Ricordiamo brevemente che ci siamo, domani l'avvio ufficiale del Parlamento con la prima seduta di Camera e Senato e l'elezione dei rispettivi presidenti, ma forse per questi aspetteremo sabato. E sia la Camera che al Senato le...